notte torno, perché ho bisogno. Ma poi io tremo, solo se ti vedo. Nessun peso, notte né giorno, adesso sveglio. Schivo colpi e mangio proiettili. Se non posso tornare indietro, tu dimmi come si fa. Chiedo qual è il rimedio, mentre io prego, perso molto indietro, non più disegno case. Chiese, né più spendo ciò che ho dentro. Da vent'anni che schivo colpi e mangio proiettili. Se non posso tornare indietro, tu dimmi come si fa. A volte sento te a stento, e pur un passo e piego, il vento all'indietro. E da vent'anni che schivo colpi e mangio proiettili. Se tornare indietro, tu dimmi come si fa.